Benvenuti a tutti a questa ennesima puntata di A Tutto Sport. Oggi in apertura volevo ringraziare pubblicamente il dottor Margheritoni che da 2 anni con i suoi debiti ci permette di andare in onda. Sai che non ringrazio Margheritoni? Che? Muglierta, lo sai perché? Perché? È la mente sua. Regista, per favore. Per favore, regista, i panni sporchi si lavano in famiglia. Allora, oggi andiamo di corsa perché dobbiamo... Abbiamo ancora un'altra esclusiva. Oltre, no, purtroppo non abbiamo presentato qui senza il manco Stefano Fiore, babbo, però abbiamo, diciamo, un altro che è il pure campione di Formula 1, il grande Michael Schumacher. Michael, ci sei? Yes, io essere in collegamento, buongiorno. Ciao Schumi, come stai? Sì, ma scusa, io non essere domenica sportiva con quella bella stile Roma di Favola Ferrari, brum. No, io sono Paolo di A Tutto Sport. Sti cazzo, allora che volere tu? Allora iniziamo con questa stagione appena conclusa, com'è andata? Ma abbastanza male, macchina non buona, ma soprattutto hanno fatto con problemi con avanzare di stagione. Ecco, diciamo a Paolo Zotto. Che ogni giorno che passava la macchina diventava sempre più brutta, io prendere pazzata da Rosberg. Ah, abbiamo capito, ti la sindrome di Margheritoni. Magna magna e te ne fico. Comunque Michael, adesso ci sarà la pausa della Formula 1. Per il prossimo anno avete timore dei vostri avversari? No, assolutamente, Ferrari grande squadra, Red Bull grande squadra, ma noi pensiamo noi stessi, perché noi l'avremo endure come posso. Lasciamo stare le cose politiche, ma un'ultima domanda per scoprire lo Schumi privato, i bambini e tua moglie stanno buoni? Yes, yeah, stanno bene, la moglie l'ha rubata quel cornuto di Frenzen, po' Frenzen! Sì, ricordiamo. E avete progetti di altri figli insieme? Yes, yeah, ma fino a quando sono stato impegnato con stagione agonistica e prendere mazzata da Rosberg, perché sai come dice per Deutsch? Come dice? Dice, o cazzo o un problem problem. Problem. Ma... fucking problem. Dopo questa perla di saggezza di Schumacher vi salutiamo e vediamo appuntamento alla prossima puntata. Sperando che ne porta Stefano Fiore e Margheritoni, sperando che i debiti del Margheritoni ci portano anche come ha detto Stefano Fiore, oppure il presidente di Nova Cosenza Calcio. Ero Bruzio! Oh, Bruzio mi fa schifo, picchia solo una cinesquadra a Cosenza, basta.